Marino mio, ancora vivo, sì, dal caldo, eh? Hai visto? Guarda, noi fino a ieri siamo andati al mare, ma oggi riposo, oggi e domani riposo. E io la facciamo, me ne sono a pigliare il fresco, con mia moglie. E beh, novità Natali, perché io sono andato tre giorni al mare di seguito e non sono più entrato. Novità ce ne sono, no? E io mi ho messo il computer a posto, va, diciamo così. Adesso c'ho il sistema a 64 bit, c'ho 4 giga di RAM, e il televisore grande, c'ho 21 pollici, cazzo pauroso, 22 mi barisci. Eia. No, ma dico al baracchino, niente, zero totale, questi tre giorni che non c'ero. Ma anch'io non c'ero, capito? Quindi non ti so dire nulla. Eia. Guarda, oggi per me c'era troppo caldo e quindi oggi feria, riposo, domani lo stesso, magari dico ci andremo a Shan, che dice il clima, magari a mangiarci una cosa, capito? Mamma di turchi, siamo andati due giorni a Platamona e un giorno allo Scoglio Lungo. Lì, dai. E a TV io ancora non mi sono fatto manco il bagno, bella vergogna. Ma non sei andato nemmeno una volta? Ci sono sceso a mare, sì, però non mi sono fatto il bagno ancora, capito? Eia, guarda, Platamona è un bijou, sembra di essere in piscina. Scoglio Lungo, non lo so, è leggermente più fresca l'acqua, però Platamona è un bijou, anche se vai tardi, mi è un po' tardi, tipo alle 4:30, 5, l'acqua ha preso tutto il calore della giornata ed è bellissimo, io quando ci entro ci sto un paio d'ore in acqua, circa, dai. Beh, a parte io ancora nisba. Ero impegnato in varie cose, capito? Io sto facendo i curriculum nuovi, perché bisognava aggiungere l'ultima volta che ho lavorato e tutto, insomma, ce n'è da fare. Eia, pensa, ho visto sulla 131 che stanno facendo lavori di asfaltamento. Infatti è tutto a cartelli, a deviazioni, ma tu immagina quei poveri operai dell'ANAS o chi sono, no? Che devono stare tutto il giorno al sole, poi con quei giubbetti rifrangenti, poveracci, non li invidio. Quello è un lavoro un po' così, Eia. Un bel caldo erano, poi con quel catrame caldo che spargono, mamma mia, e quindi è tutto a tratti la 131, sia all'andata che al ritorno, sì, tutta la deviazione, infatti bisogna stare attenti a non sbagliare, ma poco da sbagliare c'è. L'asfalto è bello, una volta che trovi il tratto asfaltato è un bijou, sembra una tavola da biliardo. Benissimo, io sono in mutande tanto per cambiare, perché qua ci sono dentro casa 28 gradi qua in questa stanza, fuori ce ne sono roba di 33, non ti innandi. E mi ha mandato un messaggio Giulio l'altro giorno che dice siamo la 27, è arrivata alla fine, non c'è più nessuno, nulla, solo ieri o l'altro ieri quando era ho sentito Franco, abbiamo parlato poco, mi pare ero tornato dal mare e poi mi ha salutato, anche lui ha detto che non c'è molta gente, e va bene, sa, ci siamo, quindi chi va in campagna, chi va qua, chi va là, mi sembra anche normale. Normale, mai come quest'anno però c'era questo vuoto, eh. E poi io mi sono lucidato i fari della macchina, poi ne avevo uno in alto e uno in basso, non vedevo un cavolo l'altra notte, alla cieca era. Via. Io te l'avevo detto, sì, che avevo fatto la revisione alla macchina, tutto a posto. Sai, magari quello che può essere più seccante sono le gomme, se sono consumate, e la marmitta che inquina, per fortuna non inquinava. Più che altro le ruote davanti sono più profonde, no? Le battistrada, quelle di dietro un po' meno. Infatti quando servirà metteremo le gomme nuove davanti, no? E quelle che ci sono davanti adesso le mettiamo dietro, perché quelle importanti sono le ruote direttrici, motrici e direttrici, che sono avanti, che devono essere sempre in migliore stato, dai. È tutto lì, dai. E voi caldo ne avete lì? Ah, qua ci sono 27 gradi. Eia. Naturalmente ce n'è un po' di più perché batte il sole da questa parte. Mi è arrivata la papa Natalì. Se manco entrato ti devo lasciare. E vabbè, già sono qui io, là. Tanto già lo sai, poi mi viene la biocco e non entro più per tutta la sera. E vabbè, fa come credi. Dai, nel caso che non rientrassi ritieniti salutato. Ok, ciao, buon pranzo. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Prova radio. Sono come su binario 10. Thank you.